Mio dolce fiore, raccolto in un prato fiorito, spargi il tuo polline, invadi i miei campi. La pace e la gioia siam parte di te, gioisci mia sposa e vieni, vieni con me. Prendo per mano, ti faccio volare, asciugo i tuoi occhi, tu soffri d'amore. Ti prendo per mano, ti faccio volare, asciugo i tuoi occhi, tu soffri d'amore. Mio dolce fiore, mio puro amore, mio tenero fiore, ti porto via con me. Mio dolce fiore, nato fra i gigli e le rose, innaffio, ti nutro e ti porto via con me. La luce e la gloria siam parte di te, esulta mia sposa e vieni, vieni con me. Ti prendo per mano, ti faccio volare, asciugo i tuoi occhi, tu soffri d'amore. Ti prendo per mano, ti faccio volare, asciugo i tuoi occhi, tu soffri d'amore. Mio dolce fiore, mio puro amore, mio tenero fiore, ti porto via con me. Fiore.